Vino d'estate. 20. Interludio. L'imperatore del cielo aveva una bellissima figlia che viveva da sola sulla riva orientale del fiume delle stelle tessendo. La sua diligenza lo commosse al punto che quando la fanciulla raggiunse l'età giusta, frugò tutto l'universo alla ricerca di un uomo di animo buono. Dopo molte lune, trovò tale uomo, un bovaro che viveva sulla riva occidentale. E ubbidendo alla volontà del padre, i due si sposarono. Dopo il matrimonio, marito e moglie si innamorarono a tal punto che avevano tempo soltanto l'una per l'altro. Il telaio tacque, le mucche si dispersero. L'imperatore era scontento e mandò a dire a una gazza che la coppia smodata doveva ritornare immediatamente ai propri doveri sulle rive opposte del fiume e incontrarsi solo una volta al mese. Ahimè. L'uccello si sbagliò e disse che potevano vedersi solo una volta all'anno. Perciò ogni anno, al settimo giorno della settima luna, le gazze si levano verso il cielo allargando le ali fino a snodarsi lungo il fiume delle stelle, tracciando il cammino per la riunione della fanciulla tessitrice e del bovaro. Anche se gli altri 364 giorni della loro vita sono tristi e deserti, la felicità del marito e della moglie in quell'unico giorno è così grande che nuvole di pioggia devono nasconderla agli occhi dei mortali, ricoprendo il cielo nella loro discrezione. Racconto cinese. Come faceva tutti i giorni da quando era arrivata al Travelers Hotel, l'una di primavera se ne stava seduta sulla scomoda sedia accanto alla finestra della sua stanza. Le sembrava di essere lì da sempre, vedendo e non vedendo Shanghai. Quando era passata la tempesta, ne aveva seguito il decorso, ma ricordava poco. I suoi pensieri tornavano in continuazione al convento, non al Manciù, perché quel che era stato fatto era necessario, ma alla congiura che ora la legava allo zio. In tutte quelle notti aveva riposato poco. Fantasmi senza nome la inseguivano lungo gallerie tortuose, attraverso cortili sconosciuti, verso strane alture da dove era impossibile fuggire. Il mattino era esausta, incapace di dimenticare. Il secondo giorno si era fatta procurare un volume della poetessa Sung, Ling Ching Chao, il cui destino non era diverso dal suo. Anche lei si era sposata giovane e felicemente con il figlio di un famoso letterato. Era rimasta vedova ed era stata costretta dalla guerra a lasciare il nord per il sud. Sola, nella mia camera isolata, il dolore avvolge tutto il mio essere. Rimpiango che la primavera sia passata tanto rapidamente, che la pioggia abbia affrettato il declino dei fiori. Mi sporgo dalla balaustra, stanca e disperata. Dov'è il mio amato? Solo l'erba che va ingiallendo si estende all'infinito verso l'orizzonte. Ansiosa, scruto la strada, sperando nel tuo ritorno. Sempre la stessa poesia. Di tanto in tanto chiudeva gli occhi per rievocare felice promessa e la sua faccia le appariva così, come l'aveva vista la notte del matrimonio, il mattino in cui era partito. Com'era giovane. Ora lei lo aveva già superato di 3 anni. Perché, marito mio, mi hai lasciato? Niente potrebbe essere paragonabile alla gioia che avremmo assaporato se tu fossi rimasto a passeggiare nel giardino, il figlio di tuo figlio nelle tue braccia. Niente di quel che provo oggi è paragonabile a quel che provammo da giovani. Nessuna promessa che farò d'ora in poi sarà mai altrettanto sincera, poiché così facendo infrangerei il mio giuramento verso di te. Un tempo era riuscita a ricostruire intere giornate vissute insieme. Gli abiti che lui indossava, l'espressione mutevole dei suoi occhi, la sensazione dell'aria sulle guance e il frusciare delle foglie sotto i piedi. Aveva serbato ogni dettaglio quando aveva cominciato a dimenticare. Non lo sapeva più. Tanti particolari erano andati perduti oramai. Quella minuscola cicatrice era sul pollice o sull'indice? Era stato il primo dettaglio a svanire, questo lo ricordava, e ricordava anche di aver pianto quando si era accorta di averlo perso. Dopodiché aveva arbitrariamente deciso che la cicatrice si trovasse sul pollice. Passati 11 anni, era difficile distinguere quel che era stato da quello che lei stessa aveva semplicemente immaginato. Di tanto in tanto, quando lo chiamava, gli occhi nella fotografia con la cornice d'argento la guardavano da un volto senza vita e poi l'immagine svaniva e ne subentrava un'altra. No! Gridava quando ciò succedeva. Non è lui che amo! Mio marito era giovane, non aveva capelli grigi. Ma la presenza dello zio anziano persisteva e anche le raccomandazioni che le aveva fatto Virtù Splendente quando si erano congedate. Era assillata sempre più dagli interrogativi. Che cosa, a cosa doveva essere fedele? Al passato? A un voto fatto? A uno? A molti? Ai debiti contratti? Che cosa doveva sacrificare e che cosa doveva conservare? Si allontanò dalla finestra prendendo una ciliegia dal vassoio col cibo che era rimasto intatto sul tavolo e la mangiò distrattamente, ingoiando anche il nocciolo, provando la sensazione della propria voce che sgridava già da lucente per aver fatto quella stessa cosa. Kuan Yin, misericordiosa, pregò, fa che i nostri momenti di tenerezza cancellino i rimproveri e confortino la mia bambina negli anni a venire. Inquieta, prese il ventaglio pieghevole dalla tunica. Era di avorio, ma intagliato così riccamente da sembrare pizzo bianco. Una voce dal passato le sussurrò: Sei sicura, bambina, che il ventaglio sia rosso? Guarda di nuovo. Era blu. Guarda di nuovo, disse il mago. Era dorato. Qual era la realtà? E quale l'illusione? Certo era stata l'anticipazione a colorarlo, o era lei che era stregata? E altrimenti, perché non riusciva quasi a pensare ad altro se non alla sua vita senza clan, senza un nome, soltanto loro due legati in una finzione? Chiuse di scatto il ventaglio, si alzò e si diresse al lavandino, premendo il pulsante per far scorrere l'acqua. Si lavò le mani. Quando furono asciutte, il profumo di rosa rimase. Sorrise. Era il profumo di lontane sere d'estate, quando se ne stava con le sue dita infantili tese, mentre la terza cugina pazientemente le strofinava ciascuna unghia con petali di rosa. Era stato forse il suo quarto anno di vita, quando il caprifoglio era così dolce e Fiore di Prugno aveva colto i fiori più alti del rampicante per tentarla. Come sarebbe stata la vita per loro due soli, chiusi in quella finzione? Era troppo presto per dormire. Ma si sdraiò sul letto e cercò di mettersi a suo agio. Il materasso occidentale era troppo morbido, il cuscino di piume troppo informe. Si sentiva come un uccello in gabbia abbandonato dalla famiglia traslocata in una nuova casa. Si costrinse a concentrarsi e a contare i giorni. Ne erano trascorsi 7 o 8 da quando era arrivata lì. Ancora non aveva ricevuto notizie da talento coraggioso. Prima di lasciare Xu Chao l'aveva avvertita che sarebbe trascorsa una settimana o forse più. Non era facile iniziare una nuova vita quando si dovevano mantenere dei segreti. Ma lei temeva che se lui non l'avesse mandata presto a chiamare, la solitudine o forse la malinconia avrebbe avuto il sopravvento sulla ragione e li avrebbe traditi. La stanza d'albergo non era piccola, ma era affollata di quel che era stato e di quel che sarebbe stato, se solo fosse potuta uscire per una passeggiata o avesse potuto parlare con qualcuno. Come sarebbe stata la vita se solo... Sentì bussare alla porta. Si tirò faticosamente in piedi. Chi è? Una lettera per Wu Tai Tai. Aprì la porta. Il fattorino si inchinò, porgendole la busta. Chiedendogli di aspettare, l'aprì con uno strappo. Il messaggio diceva: Questa sera Babbling Well Road 333. Ah, oh, finalmente! Le parve di scorgere uno sguardo d'intesa sul volto del fattorino e rapidamente assunse l'atteggiamento appropriato. Ti prego, prepara il mio conto. È già stato saldato, padrona, e c'è una carrozza che ti aspetta. Il viaggio, disse il cocchiere, avrebbe richiesto circa mezz'ora. Si abbandonò con soddisfazione contro lo schienale. L'aria era mite, persino fresca, ma lei aveva difficoltà a respirare. Chiuse gli occhi, poi, temendo di avere delle visioni, li riaprì e guardò fuori dal finestrino, ma era notte e andavano così in fretta che non riusciva a vedere granché. Avrebbe ricordato una cosa. Non molto tempo dopo che si furono allontanati dal band, un'altra carrozza li affiancò. Riluceva come uno scrigno laccato al chiarore delle sue due lampade di ottone e dentro c'era un uomo solo. I loro occhi si incontrarono per un istante prima che lei abbassasse i suoi. Qualcosa in lui la sconcertava. Il suo volto le era familiare. Dove si erano visti prima? Non a Suzhou. A Pechino, forse. Poi capì. Non l'aveva mai incontrato. Quel che l'aveva colpita era la sua somiglianza con Felice Promessa. Senza che l'avesse convocato, suo marito le apparve così, come era la prima volta che l'aveva visto il giorno delle nozze. La pelle liscia, gli occhi come quelli di nessun altro, e a un tratto trovò la spiegazione di quel che non aveva ancora capito. Ho combattuto molto, marito mio, per impedire che la stagione cambiasse, ma la primavera se n'è andata, e ora è estate. La sua immagine indugiò ancora un istante e poi le parve di sentirlo dire, come aveva detto in passato: questi sono tempi di cambiamenti. Quando la carrozza si fermò a un incrocio, guardò di nuovo. L'altra era sempre di fianco alla sua e lo straniero ora le sorrideva. Senza pensare, contraccambiò il sorriso, ma quando si fu resa conto di quel che aveva fatto, i cavalli erano già galoppati via e la carrozza era scomparsa. Si appoggiò allo schienale e chiuse gli occhi. Padrona, siamo arrivati. Il guidatore le teneva aperta la portiera. L'una di primavera scese e rimase a guardare, mentre lui prendeva dalla vettura le sue valigie. Poi la precedeva su per i gradini di mattoni della casa. Lei lo pagò e prima di suonare il campanello attese finché il rumore degli zoccoli non si sentì più. La porta si aprì. Un uomo in abito di lino bianco con cravattino nero stava davanti a lei. Zio anziano. Lui rise, alzò una mano per lisciarsi i capelli, tagliati corti e impomatati alla maniera degli europei. Sono proprio cambiato, nemmeno io riesco ad abituarmi. Sembra giovane, pensò, molto più giovane. Entra, entra, prenderò io le tue valigie. Non ci sono ancora i servi. La cosa migliore, penso, è che li scelga tu. Fino ad allora saremo soli. Chiuse la porta dietro di loro e la guidò verso una stanza lunga e stretta, tappezzata col tipo di Muban che era abituata a vedere sui pavimenti. L'effetto era strano, ma non sgradevole. Ti prego, siedi. Le indicò una delle poltrone di cuoio nero di fianco a un tavolino di mogano e tornò a sedere nell'altra. Il libro che stava leggendo era aperto sul bracciolo imbottito. L'una di primavera non sapeva cosa dire. Si guardò intorno. Il massiccio camino, i dipinti di uomini a cavallo, di velieri e di cani immacolati. Talento coraggioso si schiarì la voce e in tono discorsivo riferì quel che aveva fatto per far credere di essere B.T. Yang, un cinese d'oltremare a Shanghai per affari. Lei gli pose solo alcuni quesiti essenziali. Quando l'argomento fu chiuso, lui si alzò dicendo: «Che ne diresti di un rinfresco?» «Rinfresco?» E sono passato dal fornaio e ho comprato alcuni dei tuoi prediletti dolci alla mandorla. Fece per andare nella stanza attigua. Lei si protese d'impulso verso di lui, quasi urlando: No, non andate, non vi disturbate. Ma non è un disturbo. Oh, vi prego, zio anziano, ho mangiato all'hotel prima di venire qua. E forse allora gradiresti del tè? Tè? Tè? Lei scosse il capo. No, non ho sete. Ma subito rimpianse di aver rifiutato. Una tazza di tè le avrebbe tenuto occupate le mani. Si sforzò di trovare un argomento di conversazione e alla fine chiese bruscamente: Dov'è il giovane zio? Nelle Filippine, rispose lui sedendosi di nuovo. È partito da Shanghai più di una settimana fa. E quanto resterà via? Finché sarà necessario. I suoi amici della comunità cinese d'oltremare l'aiuteranno. I loro occhi si incontrarono. Non preoccuparti, nipote, non è solo. Lei distolse lo sguardo, fissando il libro fra di loro e rileggendo più volte il titolo senza capire. Lui si affrettò a riempire il silenzio, ma lei non ascoltava le sue parole. C'erano mai stati momenti come questo in cui non aveva avuto niente da dirgli? Non ne ricordava nessuno fino a quella sera. Nipote? Sì. Stavo dicendo che questa stanza è una copia di certi locali che si trovano a Londra, spiegò l'ambiente naturale. I tipi avventurosi che vengono in Cina per tentare la fortuna spesso arredano così le loro case. Di ritorno in Inghilterra non potrebbero mai aspirare ad appartenere ai club esclusivi che hanno stanze come queste. Oh, com'è triste. Lo pensi veramente? Chiese con un tono che aveva usato molto tempo prima per ottenere la giusta risposta dalla sua allieva. Poiché lei tacque, lui proseguì. A me non sembra affatto triste. Dopotutto, chi può realizzare ogni sogno? Per alcuni un'illusione, anche se breve, è sufficiente. Aspettò una sua reazione, ma lei si limitava a osservare il disegno del tappeto. Sarebbe triste, proseguì lui, soltanto se non vi fosse nessun luogo, nemmeno a Shanghai, dove gli esiliati potessero rifugiarsi. Di nuovo aspettò da lei qualche parola. A malincuore gli occhi di luna di primavera incontrarono i suoi. E bastò. Quando infine lui parlò, c'era una tenerezza nella sua voce che lei non aveva mai sentito. Luna di primavera, ho tante cose da spiegarti. No, fu sul punto di gridare lei. Non ora, non ancora. Bruscamente si alzò. Zio anziano, vi prego, scusatemi, sono stanca. Anche lui si alzò. È molto comprensibile. Portò le sue valigie nella stanza sul davanti del secondo piano. Lei lo ringraziò, lui le augurò la buonanotte. Quando se ne andò, lei rimase sulla soglia a osservarlo mentre scendeva le scale. Lo avrebbe riconosciuto ovunque, pensò, sotto qualsiasi travestimento. Sola, disfece i bagagli, spostandosi meccanicamente dalle valigie al guardaroba e viceversa. Quando le valigie furono vuote, sedette accanto alla fotografia di Felice Promessa posata sul letto, scrutandola a lungo. Era alto, la sua pelle era liscia e gli occhi come quelli di nessun altro. Lei e suo marito erano di nuovo due sconosciuti. Prima di lasciare la stanza, ripose con cautela la cornice d'argento in un cassetto. Da basso le luci erano spente, tranne la lampada sul tavolino dell'atrio. La porta sul davanti era spalancata. Talento Coraggioso stava in piedi, appena oltre la soglia, girandole la schiena. Per un attimo lo osservò. Che fosse in movimento, oppure come ora, fermo, il suo portamento richiamava alla mente ogni ideale di eleganza e raffinatezza. La sua grazia era autentica, forte, e chiunque osservasse i suoi lineamenti armoniosi era immediatamente sollecitato a conoscere il suo carattere. Diede un colpetto sulla porta. Lui si voltò verso di lei senza alcuna sorpresa. Perché siete uscito? Chiese Luna di Primavera. Deve forse arrivare qualcuno? No, rispose lui gravemente. Nessun altro. E allora perché aspettate? Oh, sono stato uno sciocco per tanto tempo, Luna di Primavera. Per tanto tempo. Perché siete stato sciocco? Oh, soltanto un altro sciocco potrebbe chiedermelo. Colmando la distanza fra di loro, lei gli appoggiò la testa sul cuore. Per tutta l'estate su Shanghai ci fu una luna traslucida, come una scaglia cristallina persa da una lucente sirena. Le notti erano dolci, una brezza profumata agitava delicatamente, senza furia, i salici e i grilli frinivano, per completare la loro canzone prima che la loro vita effimera terminasse. Il vino d'estate rese il desiderio più intenso. 21. La resa. Alle 9 di sera di quello che sarebbe diventato famoso come il decimo giorno del decimo mese del primo anno della Repubblica Cinese, una banda di ribelli si impadronì dell'arsenale di Wuchang nell'odierna Wuhan. Quando la notizia si diffuse, i ribelli si sollevarono in tutto il paese. Incontrarono scarsa resistenza. Quando un nemico si tagliava la coda, era accettato senza pregiudizi fra le file repubblicane. Il sesto giorno precedente, il primo giorno dell'anno del topo, 1912, il pennello vermiglio emanò il suo ultimo decreto. La gloria di una sola famiglia non può prevalere sulla volontà di milioni di persone. Perciò l'imperatore si ritirerà per contemplare a suo piacimento il ciclo di molte lune finché si instauri un governo saggio. Il drago purpureo della dinastia Qing aveva fluttuato sopra i tetti della Cina per oltre 250 anni. Nel corso di una sola notte scomparve. Su ogni bottega e tugurio di Shanghai, le bandiere bianche della rivoluzione svolazzavano come lenzuola fresche di bucato stese ad asciugare. agli angoli delle strade e nei vicoli. Prima dell'alba, dopo il tramonto, ovunque squadre di individui armati di forbici recidevano le lunghe code nere da teste ignare, restie. Gli uomini ridevano nel vedere i loro vicini così tosati e subivano a loro volta lo stesso destino. Senza la coda, i poveri sembravano porcospini, i ricchi che potevano permettersi una pomata, oh che fradice! Figli in lacrime supplicavano gli anziani di perdonarli per aver deturpato un dono degli antenati. Madri gementi accarezzavano le trecce recise. Storia cinese. Il primo giorno della prima luna, luna di primavera, scrisse alla suocera, augurando a lei e alla famiglia un felice e prospero anno del topo. Secondo la tradizione, riferì come aveva trascorso l'anno passato, cercando di mantenere la finzione il più possibile aderente alla realtà, senza rivelare alcun segreto. Già da lucente frequenta un'eccellente scuola qui vicino e io ho trovato lavoro presso la famiglia Yang di Shanghai. Non si aspettava di ricevere gli auguri della suocera, dal momento che l'anno precedente Gioia di Loto non le aveva scritto. 3 settimane dopo, un mattino in cui i cavalli esalavano un fiato bianco e la luce faceva sembrare le stanze sul davanti più ampie che negli altri giorni, lei se ne stava sola nello studio a leggere. Talento coraggioso era fuori per i suoi appuntamenti. Come al solito aveva mandato uno dei servi a restituire, prima di mezzogiorno, ora in cui spesso lui veniva a casa per il pranzo, il suo ultimo dono. Sorrise fra sé, toccandosi la forcina d'oro che portava. Quello era stato il suo primo dono, l'unico che avesse serbato. Ovviamente lui donava per il solo piacere di dare, poiché non si era mai accorto che i suoi doni successivi fossero scomparsi. La gioia che traeva da lei e, dopo Wuhan, dalla nuova repubblica era quella di un giovane che ha solo speranze e piani per il futuro. Forse il mondo è cambiato, ripeteva in continuazione. Forse la lotta raggiungerà i suoi fini, forse saremo liberi. Si comportava come se la loro felicità dovesse durare per sempre. Certe notti rideva forte nel sonno. Stava per attizzare il fuoco nel camino quando suonò il campanello. Era un messaggero. Le sue mani tremavano mentre prendeva il telegramma. Veniva da Pechino. Gioia di Loto richiamava la nuora al suo fianco. Non ci sarebbero state lacrime. Fin dall'inizio, Luna di Primavera aveva saputo che la sua felicità con talento coraggioso sarebbe stata solo un interludio. Dapprima aveva pensato di avere più tempo, anni forse. Ma dopo Wuhan, la tristezza l'aveva assalita a ciascun tramonto, poiché una volta che i Manciù fossero stati sottomessi e l'ordine ripristinato, i rivoluzionari sarebbero tornati a casa. I morti, come i fratelli Chang, sarebbero tornati in vita. Gli sradicati, come gli Yang, sarebbero morti. Non poteva comportarsi come una bambina spensierata che avesse visto e esaudito ogni suo desiderio, come se avesse potuto salvare la sua schiava e imprimere un altro corso al suo destino. Più e più volte si era ripetuta la lezione del venerabile per prepararsi alla resa quando fosse venuto il momento. Si era anche chiesta dove sarebbe vissuta. Xuchao era fuori questione. Come poteva ridiventare di punto in bianco sua nipote dopo essere stata sua moglie? Non poteva. E nemmeno lui poteva. Eppure non c'era altra soluzione. Ora il telegramma le dava la risposta. Senza lasciarsi sopraffare dal dolore, salì le scale per prepararsi al viaggio. Era l'ora della scimmia quando la serva annunciò che il padrone era tornato. Entrando nello studio, Luna di Primavera lo trovò assorto nel giornale aperto sulla scrivania. Senza una parola, posò il telegramma sulla pagina che lui stava leggendo e sedette vicino alla finestra. Nessuno dei due si mosse per lungo tempo. Lei se ne stava con la schiena rigida e la sua compostezza vacillava come una candela esposta al vento. Improvvisamente lui rise. Era un suono innaturale, come la risata di una marionetta in uno spettacolo per bambini. È ridicolo! Sono proprio le parole che ho usato nel messaggio che ho mandato a Xuchao l'estate scorsa. Diceva: ho bisogno immediato di luna di primavera. Firmato la suocera. Stop. Gli dèi ci perseguitano con le nostre stesse bugie. Buffo, non è vero? Lei annuì, impassibile. Allora dovresti ridere. Perché non ridi? Si alzò con calma e strappò il telegramma a pezzetti sempre più piccoli prima di gettarli nel fuoco. Lei osservò i coriandoli di carta ardere, ridursi in cenere e fluttuare lievemente verso l'alto fino a sparire nel camino. Raccogliendo l'attizzatoio, lui ravvivò le fiamme. Lei non riusciva a parlare. Era come se nella stanza non ci fosse più spazio e non potesse sopportare un altro pensiero, un altro grido. Improvvisamente Talento Coraggioso lasciò cadere l'attizzatoio e le si avvicinò, facendola alzare di scatto. Rimpiangi il nostro amore? La scrutò negli occhi. Lei non rispose, ricordando come un tempo suo marito le avesse rivolto la stessa domanda. La felicità doveva sempre morire così? Tenendola stretta, le chiese di nuovo. Rimpiangi il nostro amore? Devo saperlo. Perché chiedermelo? Pensò. Perché chiedere al sole se rimpiange la luce? No, no, rispose teneramente. Rimpiango soltanto di doverti lasciare oggi. Ma perché proprio oggi? Oggi sarà più facile che domani, rispose. Lui non negò quella verità. Si abbracciarono in silenzio. Forse sarà soltanto per poco, mormorò lui. Lei si staccò e si diresse verso il mappamondo in un angolo della stanza. Facendolo girare, disse: Sarà per sempre. E poi, mia suocera ha sempre fatto ricadere su di me la colpa di tutte le sue disgrazie. Se avesse potuto evitarlo, non mi avrebbe chiamata. Deve essere accaduto qualcosa al suo figlio adottivo. Io sono tutto quel che le resta. È il mio dovere, il mio destino. In onore di mio marito, servirò sua madre, come lui l'avrebbe servita se non fosse morto. I nostri antenati, che ci hanno dato la vita, negano a me e a te. Una vita in comune. Noi non abbiamo nessun diritto di appartenerci e dobbiamo arrenderci. Non abbiamo alternative. Abbassò lo sguardo sulle linee della sua mano. Stava scritto tutto lì? Il suo destino? Quando sollevò lo sguardo, gli occhi di lui bruciavano di collera. Non abbiamo alternative? Supplicava. Ma deve pur essercene una. La rivoluzione ha posto fine alla resa. Non capisci? Poiché lei non rispose, lui prese dalla tasca il rosario che lei gli aveva dato e, facendo scorrere i grani fra le dita, camminò avanti e indietro, ricordando le delusioni di interi decenni. Lei non interferì. Più lui era agitato, più lei diventava calma, distaccata. Non capisci che cosa non va? Gridò. Che cosa non va in te, in me, in noi, in Virtù Splendente, in tutti i cinesi, nell'antico impero, nell'antico sistema di vita? Siamo sempre disposti ad arrenderci. Ecco che cosa non va. Alla fine cediamo tutti alla tradizione, allo straniero, alla famiglia, all'autorità, al dovere, a ogni cosa e a ogni persona morta e viva. Tranne che ai nostri bisogni, ai nostri sogni, alle nostre passioni. Se viviamo per noi stessi non è mai per molto. Un attimo qui, un mese là, fino a quando, nessuno lo sa, finché non avviene un vero cambiamento. Poi ci arrendiamo di nuovo viviamo secondo i desideri degli altri. Bruscamente smise di parlare e guardò fuori dalla finestra inargentata dal gelo. Il cielo che ora col calare del sole andava scurendosi. Si sentiva soltanto lo scoppiettare della legna nel camino. Quando riprese a parlare la sua voce era senza vita. Anche se protesto, so che non cambierò nulla. Tu onorerai il tuo marito morto e io non disonorerò il clan. E così vivremo, separati. Vite che non abbiamo scelto. Lei gli si avvicinò, le braccia tese. Lui non la guardava. Gli prese la faccia fra le mani. Sopravviveremo, disse. Finiremo per considerare la nostra separazione una condizione naturale. Arrendendoci, anche i nostri desideri si smorzeranno. Così succede a noi cinesi. Tu l'hai detto spesso. Lo baciò dolcemente sulle labbra, ma lui non voleva essere confortato e si scostò. Con l'attizzatoio buttò giù selvaggiamente dagli alari i resti carbonizzati della legna e ne gettò dentro dell'altra dall'apposito recipiente. Dopo aver trafficato un poco il fuoco, disse: Quel che nessun altro uomo sopporterebbe, io lo sopporterò perché sono cinese. Quando gli stranieri camminano, sognano di cavalcare, di viaggiare su un carro, su una carrozza, su un treno e un giorno su una vettura senza cavalli. Quando noi cinesi camminiamo, ci consideriamo fortunati ad avere l'uso delle gambe. E se ci tagliano le gambe, noi freniamo la collera, ignoriamo le minacce, accettiamo gli insulti, rifuggiamo da pensieri di vendetta. E se non ci riusciamo, li nascondiamo agli occhi del mondo e ci adattiamo a un destino da storpi, ritenendoci fortunati di poter restare seduti, risparmiando le suole delle scarpe, mentre altri meno fortunati di noi giacciono sottoterra. Noi ci arrendiamo e sopravviviamo l'una di primavera. Ma a che scopo? A che scopo? Per una vita di sacrificio, di dovere e di onore, rispose lei. Ma non basta! Non poteva sopportare la sofferenza nella sua voce e gli mise una mano sulla bocca. Ti prego, non parlare più, non parlare più. Lui annuì lentamente. Non c'era altro da dire. Alla stazione, quando venne il momento di separarsi, osò sfiorarle una mano nell'addio e sorrise, suo malgrado, all'espressione corrucciata che gli era così familiare. Così gli era apparsa da ragazza, quando ancora non sapeva che era lei a tenere quella parte di lui che gli dèi avevano forgiato, ma che poi, al momento della sua nascita, avevano collocato per sbaglio fuori posto, assegnandola sbadatamente a lei quando era nata. Ritornato a casa, trovò una sua lettera sul letto. La mise sul comodino e per un po' rimase a fissare la busta, timoroso di sapere quel che lei non aveva avuto il coraggio di dire. Infine l'aprì e lesse: Carissimo, un tempo la mia vita non mi sembrava limitata, così come non si sente limitato un baco da seta dal bozzolo che lo racchiude. Poi tu mi hai dato le ali e io ho conosciuto la gioia del volo. Ma la luna non resta piena a lungo e la nostra ora è trascorsa. Il mio cuore è colmo, non ho spazio per rimpianti. L'amore che proviamo resisterà, ma i sogni che abbiamo sognato devono morire. Scriviamoci una sola volta all'anno, il primo giorno della prima luna, secondo l'usanza. E se ci incontreremo di nuovo, non ritorniamo sul passato. Firmato, tuo nipote.